In una lontana sera d'estate, il mio padrino Antonio, che riposi in pace, assunse all'improvviso quell'aria sorniona che avrebbe potuto preludere ad una delle sue facezie. In un bosco, mi disse, una giovane e bella ninfa finì con l'innamorarsi di un gran bell'albero. Era un pino alto e rigoglioso, maestoso e fronzuto come può esserlo un pino, forse odoroso di resine e muschi aspri e selvaggi. Alla giovane ninfa piaceva salire e scendere dai suoi forti rami, accoccolarsi negli incavi del tronco possente e ascoltare le sue storie. Il loro fu un amore grande, ricco di vividi momenti di tenerezza reciproca e vissuto intensamente nella gioia dell'uno nel darsi all'altro. Un brutto giorno, però, in quel bosco arrivò un forte vento che prese a sbattacchiare le cime del pino di qua e di là e soprattutto prese a cullare, ora dolcemente, ora violentemente, la giovane ninfa, la quale, ahimè, se ne invaghì e senza troppo starci a pensar su si lasciò trascinare via, seguendo il vento per le sue scorribande. Tuttavia, in un secondo brutto giorno, questo vento cessò di botto e la giovane e bella ninfa si ritrovò col sedere per terra. Sola e raminga pianse la porca sua stella, nonché la sua dabbenaggine, e dopo qualche errabondo girovagare nella disperazione decise di tornare al suo pino nel bosco di un tempo. «Sono qua», gli disse una volta tornata ai suoi piedi, «sono pentita di quel che ho fatto». Ero la più felice delle ninfe e la mia giovanile stolidità mi ha fatto commettere un errore irreparabile. Ti prego, se puoi, perdonami, mio bel pino, non ti lascerò mai più. Riprendimi con te. A questa accorata invocazione, continuò il mio padrino concedendosi un rapido brillio nello sguardo, a questa accorata invocazione seguì un breve silenzio. Breve silenzio in cui la giovane ninfa si sentiva vieppiù assalire da un'ansia opprimente che le troncava il respiro, e quindi finalmente risuonò la voce del pino, che disse: «Per adesso chiamami signor Giuseppe». E il mio padrino rideva di gusto perché apparteneva ad un'epoca in cui di facezie del genere, nel colloquio formalizzato ed asettico di un adulto con un bambino, di facezie del genere si poteva ancora ridere. E a questo mio vecchio e lacero tranche de vie mi ci hanno ricondotto i testi delle intercettazioni telefoniche dei colloqui fra il cavalier Benito Mussolini e Claretta Petacci. Sono pubblicati in un libro di cui abbiamo già parlato, in quel libro di Arrigo Petacco dedicato all'archivio segreto di Mussolini, e costituiscono forse un campione stupendo di linguaggi forse perduti e forse non del tutto ancora perduti. Il servizio speciale riservato, questo è il nome dell'ufficio statale che si occupava di intercettare, era stato creato alla faccia del liberalismo, non da Mussolini, alla faccia del liberalismo da Giovanni Giolitti nel 1903. Mussolini se lo ritrovò bello e fatto e decise di potenziarlo, incurante del fatto che fra le vittime più o meno ignare ci potesse finire poi anche lui. 400 stenografi, racconta Petacco, dal 1927 erano al lavoro nelle principali città italiane attaccati ai telefoni altrui. I colloqui fra Claretta e il Duce sono per lo più all'insegno del più puro feuilleton. Vi si leggono frasi come: «Il profumo dei tuoi baci mi stordisce, mi annienta, la gelosia mi rende folle, ma tu non mi ami più come prima». Lui poi le invia intere collezioni di vestaglie e lei parla come in un oroscopo o nelle cartine dei cioccolatini Perugina. Fra i vezzi linguistici della povera fanciulla, diciamo che me ne è saltato all'occhio uno. Uno relativo al modo con cui si rivolgeva direttamente al suo duce, perché in omaggio alla rapidità affettuosa e con gusto del calambur da letteratura rosa, Claretta si rivolge a Mussolini chiamandolo Ben. gioca più volte sull'ambiguità e dice: ben mio, tu lavori troppo ben, ma sì, ben mio, sei proprio tanto carino, fallo per il nostro amore, ben, e altre soluzioni vezzeggiative del genere. Gli parla così, però, e usa il ben fino alla vigilia di quel 25 luglio del 1943, in cui il Gran Consiglio del Fascismo approverà il cosiddetto Ordine del Giorno Grandi, che, restituendo i poteri al re, destituisce Mussolini. L'ultima drammatica telefonata di Mussolini a Claretta è registrata alle 3.45 del 25 luglio. E lei gli chiede: quando hai finito? Da poco, risponde lui. Com'è andata? C'è poco da spaventarsi, siamo giunti all'epilogo, alla più grande svolta della storia. Lui non rinuncia mai, la magniloquenza di Prammatica. Ma lei qui, nell'emozione del momento, forse dimentica del ruolo ricoperto fino a poche ore prima, gli dice: ma che hai, Benito mio, non ti capisco. Lui invece aveva capito, e come se aveva capito. Ben, anche il vecchio Ben non c'era più. Improvvisamente era tornato Benito. Era giunto il tempo in cui i diminutivi e i vezzeggiativi, le maschere del linguaggio, dovevano lasciare il posto ai nomi propri di uomini e cose.